is a wave, an extraction, a good vibration to catch the wave perfect, the great way of your life. You can take this hyper philosophically, right, and try to take your way, your personal way. I see a man and I see me catch for his own way, a great way, and a difficult way of the life, and wave against all the suffer, the ill, the most sadness feels, turn to F. This song is dedicated to a great needs in all of the time. The songs like this sound. God bless the hyper philosophically I write. Ci sono mille modi per prendere un'onda, tutti tanti famosi, ma il tuo, quello che hai ricercato, scritto e fatto, è quello che ti può far vincere una battaglia per la vita. Presa l'onda, hai due possibilità: saltarci sopra o dentro il tubo farti mancare, cadere. Solo quando un'onda esce così, come hai sentito, è una perfect wave, la puoi aspettare, alcune le puoi evitare per una più piccola o una più grande, ma la grande onda, quella dei miti, quelli veri, forse come me, quelli che contesti, beh, il match è il tuo, quello che porti a termine. Vuoi essere un mito? Ho visto gente prendere un'onda anche con la tavola più scrausa e vincere una partita, diventare un mito, mettere la tavola a riva e dire: prova te, prova questa. Questa è l'onda che ho preso, l'onda per la vita. E la curava e la traiettoria la possono ricercare dentro ad altre onde, ma il voto finale, quello da perfezionare, sarà sul tuo volto, la gioia o la tristezza. Voglio dire che ho preso la grande onda e che quella che ti offro è la mia tavola. Altri possono dire che assomiglia a me o ad un altro, ma è il tuo cesto, la tua onda che poi votano. Quindi scegli la tavola, non la migliore, scegli quella che stai con. La vedi l'onda là laggiù, quella è tua, provaci. Non sono io, sei tu che devi prenderla, cavalca l'onda, puoi far quello che vuoi. Vuoi provare quella mia? La mia è troppo oliata, distrutta. Forse è meglio una più tua, ma puoi provare. Come ho detto, ho visto tavole da 4 soldi, prendere onde, forse non meglio, ma meglio per loro, la loro onda, l'onda della musica. The sound is perfect, DJ. This is a moment you can listen to the music under the sun. I feel me in one day in the sun, and the day was my name, your name. The sun is for all. Put your name, try your name in the sun.